Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Sono destra e sinistra, sono la stessa identica cosa, come dico io da anni. Quindi che arriva il nuovo non ce n'è nuovo. Non c'è, il nuovo siamo noi, siamo cittadini come Pizzarotti, e Pizzarotti è un gigante qua, è un gigante. Entra in un comune con un miliardo di deficit e voi parlate che Pizzarotti ci ha messo 45 giorni invece che 35 a fare la giunta. Siete voi il cancro di questa società. Siete voi il cancro, dice ai giornalisti Beppe Grillo. Insomma, al di là dell'uso forte delle parole, utilizzate anche da Vito Crimi, lo avete sentito nell'intervista realizzata dai ragazzi di Radio Luis e poi trasmessa dalla Zanzara, insomma, un po' più volgare. Poi più avanti sentiremo esattamente quali sono state le parole di Crimi. E però si pone un problema. Qual è il punto? E torniamo a parlare del Movimento 5 Stelle, perché comunque continua ad essere la grande novità. Non sappiamo quanto durerà, a livello di novità, quantomeno di questo inizio di legislatura. Ho mancato il buongiorno. Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Parliamo del Movimento 5 Stelle e del fatto che tramite quella, mi consentirete la parola difficile, quella che possiamo definire la disintermediazione che avviene attraverso la rete, ossia il parlare direttamente attraverso internet, attraverso Facebook, attraverso dei video su YouTube, e quindi non passare quasi più attraverso i giornalisti, insomma, si possa permettere in qualche misura di mettere in crisi un certo modo di fare questo mestiere. Ci sono questioni sulle quali, appunto, evidentemente noi giornalisti ci dobbiamo interrogare, percepiti in parte come un pezzo della casta, un pezzo di determinati assetti di potere, e le parole di Grillo lo dimostrano abbastanza chiaramente. Messi in crisi soprattutto dal fatto, perché non è la prima volta che sentiamo parole di questo genere, proprio dal fatto che i deputati del Movimento 5 Stelle, chi sostiene il Movimento 5 Stelle in maniera energica, quindi non solamente deputati e senatori ma anche chi lo sostiene normalmente, è in grado evidentemente di bypassarci, perché il mezzo di informazione che utilizza prevalentemente non siamo noi, non è la radio, non è la televisione, non sono i giornali, ma è appunto internet. Questo naturalmente ci deve spingere ad una riflessione, noi giornalisti, ma insomma, naturalmente è una riflessione generale. Siamo una casta oppure no? Come veniamo percepiti? L'hashtag è Vota Antonio, siamo in diretta, c'è già qualcuno che ci scrive, c'è il amico di questa trasmissione, ex deputato e giornalista Andrea Sarubbi, che dice: io vedo giornalisti a metà tra stordito e rassegnato. Il Movimento 5 Stelle dice: mi ricorda le videocassette berlusconiane 2.0. Anche questo è un tema interessante, perché poi questo utilizzo della rete, che è stato spacciato come fondamentale, in realtà, mettiamola così, gli strumenti utilizzati non sono nuovissimi, e la comunicazione tende a restare abbastanza verticale, non orizzontale, cioè c'è tendenzialmente poco dialogo al momento. Vedremo che cosa succederà. Comunque le evoluzioni sono possibili. Potete commentare su Twitter, hashtag VotAntonio, oppure scrivete direttamente a me, Simone Spezia, oppure se volete c'è la nostra pagina Facebook, VotAntonioR24, VotAntonio con 2A, la trovate. C'è già qualche commento anche là sopra, più tardi lo leggeremo. Adesso c'è la viabilità, però come sempre, subito dopo la viabilità abbiamo il punto settimanale di Stefano Folli. Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. E però non parliamo di rete politica adesso, parliamo di politica e basta, come sempre, con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Tattica depistatoria di Pierluigi Bersani: non c'è un Toto Ministri sui giornali oggi che sia uguale all'altro, insomma. È vero, perché è presto per fare il Toto Ministri, questa è la verità. è troppo presto. Adesso si è sparso un po' di ottimismo dopo tanto pessimismo degli ultimi giorni, ma in realtà, sai, ha avuto questo preincarico, ma insomma, la strada è ancora lunga, la montagna da scalare è molto alta, quindi aspettiamo a fare i top ministri. Strada lunga, dici, e direi decisamente stretta, perché il vincolo che ha imposto Giorgio Napolitano di avere una maggioranza certa in Parlamento, insomma, prima di presentarsi alle Camere, beh, insomma, sembra un po' difficilotto da realizzare. Ecco. Il Senato è sempre lì, il problema è quello, e al massimo lui può trovare degli affidamenti, no? Visto Berlusconi ha fatto un'apertura, la Lega anche, però non è ancora una maggioranza certa, e costruire una maggioranza certa rischia di essere un compito proibitivo per il segretario di un partito di centrosinistra che tra l'altro fino all'altro giorno aveva detto con Berlusconi mai, e aveva puntato tutte le sue carte senza riuscire un'intesa con i grillini, con il Movimento 5 Stelle, quindi adesso lui si trova veramente a metà del guado, come si dice in questi casi, e insomma i numeri al Senato sono quelli che sono, però insomma non si può nemmeno dire che parta battuto in partenza, perché è tenace, l'uomo è tenace, ci sta puntando molto, sta cercando di creare un clima psicologico, oggi vede per esempio le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, perché vuole dimostrare che c'è un'emergenza nel paese, che c'è una esigenza economica, che è quella di dare rapidamente un governo al paese. Lo sappiamo tutti qual è la drammaticità della situazione, lui gioca questa carta per cercare di indurre tutti un po' al senso di responsabilità, insomma bisogna fargli gli auguri in questo momento. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Certo che oggi riferisce per esempio la stampa che ci sarebbero una ventina di deputati del Movimento 5 Stelle che stanno, pardon, di senatori del Movimento 5 Stelle che stanno dicendo: beh, insomma, ragazzi, qua tocca rimettere a posto il paese. Segnalano un po' di nervosismo, si segnala in questo pezzo della stampa, un po' di nervosismo nei confronti di Grillo. Arriva, va alle consultazioni con Napolitano e poi schizza via sul suo SUV. Non ci parla nemmeno, fa sapere le cose solamente dal suo blog. Pensi che questo, anche se sono difficili da leggere i deputati del Movimento 5 Stelle, perché insomma sono nuovi, appena arrivati, eccetera, possa essere un aspetto che scardina, no? È un aspetto che va tenuto in seria considerazione, perché quello non è un partito, è una strana cosa, è un movimento, quindi diciamo è qualcosa in cui ognuno si sente padrone in casa propria, no? Uno vale uno, è il loro slogan, quindi non si sentono legati troppo a una disciplina. Al tempo stesso però è anche un partito, perché Grillo lo considera una struttura molto disciplinata di cui lui è il leader. Allora questa contraddizione determina una serie di problemi, compreso il fatto che ci possono essere dei malesseri, li abbiamo già visti nella votazione su Pietro Grasso, e evidentemente questi malesseri continuano a manifestarsi. La verità è che il Movimento 5 Stelle deve ancora decidere se vuole essere una forza antisistema e quindi diciamo pararivoluzionaria, quindi guidata da una disciplina interna rigidissima, oppure vuole essere un movimento riformista disponibile ad accedere a istanze riformatrici, quindi molto pragmatico. Ecco, questa alternativa non è stata ancora realmente decisa. Stefano, che è stato un po' il dilemma della Lega per un certo periodo, no? Sì, certo. Di piazza o di governo, no? Come? Sì, certo, per certi aspetti ci sono delle assonanze, certo. Tu parlavi del fatto che insomma probabilmente a un certo punto Bersani sarà costretto, o chissà se lo farà alla fine, anche se cioè la chiusura è stata forte, a cercare qualche voto forse anche dalle parti del PDL, però per il Partito Democratico potrebbe essere esiziale un accordo col PDL dal punto di vista elettorale, dico, eh? Ma sai, qui bisogna vedere, perché la politica impone spesso delle contraddizioni, no? Quello che è emerso ieri con chiarezza è che il Presidente della Repubblica non vuole tornare alle elezioni, farà di tutto fino all'ultimo giorno del suo mandato per dare un governo. Ha fatto capire che in questo momento occorre immaginare una grande coalizione. Se la grande coalizione non è possibile, lui stesso ha detto che non è possibile, occorre però uno sforzo di coesione nazionale, quindi vuol dire cercare di trovare un accordo largo, ampio sulle riforme anche fra il centro-sinistra e il centro-destra, no? Considerando quindi anche la forza di Berlusconi, che è pur sempre una imponente coalizione, la seconda coalizione emersa dal voto. Quindi la spinta di Napolitano verso un accordo di coesione nazionale è molto chiara. Quindi Bersani sa che se lui fallisce verrà qualcuno dopo di lui, probabilmente una figura terza, una figura neutra, diciamo l'emissario del cosiddetto governo del presidente, che cercherà di muoversi esattamente sullo stesso tracciato, cioè cercherà di fare un governo di larghe intese con un carattere in questo caso più istituzionale, che avrà nel Quirinale il suo garante. Quindi questa è la strada, quindi Bersani deve sapere che se lui fallisce non ci sono le elezioni anticipate, ma c'è probabilmente lo stesso scenario politico gestito da qualcun altro. Devo dirti una cosa, Stefano, in questo strano inizio di legislatura, un tipo di inizio di legislatura alla quale non abbiamo mai assistito nella storia repubblicana, mi ha colpito molto il fatto che il presidente del Senato sfidi con una telefonata in diretta un giornalista, e parliamo naturalmente della vicenda tra Pietro Grasso e Marco Travaglio. Non avrebbe fatto meglio, ma proprio per la figura istituzionale che è, a non raccogliere. A me è sembrata una cosa assurda, se devo dirti la verità. Mi è sembrata una cosa che dà il segno di che situazione siamo oggi in Italia. Ma esistono, è vero che è Berlusconi che ha dato il là a questo genere di interventi, con telefonate eccetera, però non eravamo ancora arrivati a un Presidente del Senato che chiede il confronto pubblico come se fossimo in questura con un giornalista, tra l'altro ignorando che la stampa è libera e un uomo pubblico può essere criticato da un giornalista su un giornale o in una trasmissione radiotelevisiva senza che questo comporti un confronto all'americana. Ecco, questo quindi è una cosa che secondo me è fuori dal seminato. In più i presidenti delle Camere, come tutte le autorità pubbliche e parlamentari, hanno uno strumento per tutelarsi se ci sono degli abusi nel campo dell'informazione, che è la Commissione parlamentare di vigilanza, che vigila esattamente su questo tipo di situazioni abnormi. Se si riteneva diffamato avrebbe dovuto rivolgersi a questo tipo di strumento istituzionale e non scendere in campo come fossimo nel Far West. Tra l'altro ricordiamo, perché insomma vale la pena ricordarlo, no? Che è la seconda carica dello Stato. Questo vuol dire che se Giorgio Napolitano non volesse mai il cielo, fosse impedito nello svolgere il suo mestiere, sarebbe lui il Presidente della Repubblica. Insomma, almeno l'ho trovata una grave gaffa, una gravissima gaffa. Almeno pro tempore. E ultima cosa sulla quale ti voglio coinvolgere, Stefano, è la cosa che abbiamo, che è sulle prime pagine dei quotidiani, in cui oggi la seconda notizia di politica probabilmente, che è questa dichiarazione di Riccardo Pacifici, il presidente della comunità ebraica romana, e che dice il partito di Beppe Grillo in sostanza è peggio, potrebbe essere peggio dei fascisti. C'è stata una risposta che è arrivata da Grillo, che dice: abbiamo sempre sostenuto i comitati per la resistenza. Stamattina la pagina Facebook di Grillo era invasa di commenti, la gran parte, va detto, molto moderati, molto sereni, molto tranquilli, che dicevano Pacifici non ha capito niente. Poi ce n'era anche un gruppetto, insomma, che non vi sto a riferire, andate su internet e guardatevelo, perché insomma il livello è atroce a dir poco. Sì, purtroppo io non so francamente se si possa dire che il Movimento 5 Stelle è un movimento peggio dei fascisti, questo non lo so, però che ci siano delle venature anti-ebraiche e antisemite in una parte dei sostenitori di Grillo, questo è vero, e devo dire purtroppo che lo stesso Grillo in passato si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto superficiali, molto leggere, per esempio con l'elogio al presidente iraniano Ahmadinejad, un uomo che vuole distruggere Israele, che è un uomo che ha fatto dell'antisemitismo una delle ragioni d'essere, diciamo, della sua politica, e Grillo lo ha più volte elogiato in dichiarazioni pubbliche. Quindi bisogna stare molto attenti su questo terreno, che è un terreno minato, e Grillo dovrebbe misurare molto quello che dice e anche quello che dicono certi suoi seguaci, sicuramente una minoranza. Direi che possiamo chiudere qua con te, Stefano. Io grazie. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata. Anche a te, Simone, noi a presto. Ci ritroviamo naturalmente la settimana prossima, mentre invece per quanto riguarda Stefano Folli potete ascoltare il suo punto quotidiano nel nostro giornale radio delle 8 dal lunedì al venerdì. Come già si diceva in apertura, tra poco ci occuperemo del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e i giornalisti, un rapporto che, come avete capito e come avete intuito in queste settimane, è piuttosto difficile, salvo rare eccezioni. Abbiamo ospitato questa mattina il neo vicepresidente della Camera Di Maio nell'ottima intervista realizzata dalla nostra Elisabetta Fiorito, intervista che trovate sul nostro sito www.radio24.it. però, insomma, al di là di queste eccezioni, un rapporto difficile, anche perché in questo momento il Movimento 5 Stelle sta di fatto riuscendo tramite la rete, almeno in gran parte, a fare a meno dei giornalisti, una sorta di loop per cui noi comunque siamo costretti da quello che succede a riportarne le opinioni, anche se queste appaiono solamente su internet, percepiti come una casta. E anche su questo probabilmente dobbiamo interrogarci. Vedo che già arrivano commenti via SMS, via Twitter. Sulla nostra pagina Facebook, vota Antonio R24, ci scrive Antonio Prisco, con un ordine dei giornalisti fondato sotto dittatura nel 25 e mai abolito, giornaletti e testate foraggiati con soldi pubblici in decenni di sprechi abnormi, giornalisti con tessera di partito al libro paga. Stefano ci scrive, i media fanno veramente pena, come non dare ragione a Grillo, o siete ciechi? No, non siamo ciechi, esattamente il motivo per il quale ne stiamo parlando. Questi sono i messaggi su Facebook. Io adesso non so se siamo in fascia protetta per leggere invece il messaggio che ci arriva da Marco da Pistoia via SMS. Siete un crogiolo di Lecca, quella roba là, venduti, ruffiani e miserabili, e le eccezioni che ci sono in gran numero confermano solo questa realtà. Dunque, evidentemente il tema c'è, forse l'abbiamo azzeccato. Se volete c'è la pagina Facebook oppure l'hashtag su Twitter è Vota Antonio. A tra poco. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Rispetto alle TV e ai giornalisti, guarda che veramente li sto rifiutando tutti, guarda, perché... E infatti noi non siamo veramente sul cazzo, guarda, giornalisti è una roba, ma perché purtroppo è sempre il discorso, ma di cercare lo scoop e basta, sì, il gossip. E questo era Vito Crimi, il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, intervistato dai ragazzi di Radio Luis, un'intervista che, come sapete, abbiamo trasmesso alla Zanzara e che ha suscitato qualche polemica. Il tema appunto è proprio il rapporto con i giornalisti. Prima un paio di note a chi mi scrive via SMS. Allora, la parola non l'ho corretto perché ho letto al volo dell'SMS di prima. La parola so che è crogiuolo. Ha scritto crogiolo l'ascoltatore. Questa è una prima cosa, ma è una scemenza. Parlate di velina per quella notizia dei 20 senatori del Movimento 5 Stelle, 20 parlamentari del Movimento 5 Stelle orientati verso un appoggio ad un eventuale governo Bersani. Non è una velina, è una notizia, o meglio un retroscena, un racconto che abbiamo letto sulla stampa. Dunque, il rapporto del Movimento 5 Stelle con i giornalisti. Il Movimento 5 Stelle che riesce evidentemente a bypassare proprio tramite la rete l'informazione italiana, o almeno un pezzo dell'informazione italiana, salvo qualche eccezione. I vostri commenti sulla nostra pagina Facebook, Vota Antonio R24, oppure l'hashtag è Vota Antonio, oppure potete scrivere direttamente a me, Simone Spezia, su Twitter. Io saluto Michele Sori, c'è docente di comunicazione politica e di sociologia della comunicazione al Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Sori. Allora, come la vede da questo lato questo rapporto del Movimento 5 Stelle con i giornalisti? Poi verremo magari a una cosa un po' più di pancia, se vogliamo, su come siamo percepiti noi giornalisti in genere, anche al di fuori di quello che è l'ambito dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, perché secondo me c'è un problema da questo lato e sul quale noi stessi dobbiamo ragionare. Sorice. Sì, beh, allora, riguardo il Movimento 5 Stelle, direi innanzitutto tre brevissime considerazioni. La prima, il Movimento 5 Stelle è un partito post-ideologico e naturalmente nelle retoriche rivoluzionarie di un partito post-ideologico c'è la rottura con tutto ciò che appartiene all'istituzione politica nel suo complesso, compresa quindi l'informazione che viene percepita come tale. Quindi diciamo nella casta ci sono anche i giornalisti, per cui la rottura del rapporto fiduciario con essi è comunque una rottura di questo rapporto fiduciario. Il secondo elemento è la contiguità fra il sistema dell'informazione e la politica, che è un fatto strutturale di tutte le democrazie avanzate, ma che nel caso italiano assume contorni molto più drammatici, e non è una cosa nuova peraltro. Questa contiguità esiste da prima del fascismo, è molto forte, è sempre stata molto forte. Negli ultimi anni poi ha assunto dei colori molto, molto forti, molto accesi. Il terzo elemento è, diciamo così, la retorica che proviene, che è una sorta di precipitato della retorica contro la suddivisione a destra e a sinistra, che vede dunque in tutto ciò che riproduce quel tipo di universo culturale un elemento da abbattere. I giornalisti stanno dentro quella logica, anche perché normalmente noi li percepiamo come giornalisti di destra e di sinistra. L'opinione pubblica percepisce le testate come orientate e dunque la cancellazione di credibilità verso le testate e verso i giornalisti risponde a quella logica argomentativa. Mario Adinolfi, blogger, ex deputato, insomma mille altre cose, che tra l'altro potete sentire spesso durante la settimana a 24 mattino, ospite del nostro Alessandro Milan nel suo Parlamento alle 6:30, ad un'ora indecorosa, alle 6:30. Mario Adinolfi, che alle 8 faccio una trasmissione mia fino alle 9:30, ho la mattina impegnata. Allora Mario, vorrei capire come la vedi tu, perché a me sembra che il passaggio fondamentale da questo lato sia il fatto che mentre i partiti, per così dire, tradizionali conservavano un certo bisogno dei giornalisti, insomma, per far passare il messaggio, per far uscire il messaggio, avevano bisogno dei giornalisti, il passaggio fondamentale mi sembra che il Movimento 5 Stelle in realtà non ne ha bisogno, perché ha un megafono pazzesco che è il blog e la pagina Facebook di Beppe Grillo. Adesso stavo guardando stamattina, siamo oltre il milione di like, quindi insomma una capacità di diffondere il messaggio mostruosa, e quindi a me sembra il passaggio fondamentale, sembra questo il motivo per il quale decidono di mollarci, ecco. Qual è la domanda? A cosa serve un giornalista quando hai la rete? Cioè, questo è esattamente. È semplicemente un corollario di a cosa serve un politico se hai la rete. Cioè, questi sono i due elementi. Cioè, il professionista della mediazione, sia in politica che nella comunicazione, nell'orizzonte del 5 Stelle scompare. Io lo considero una cosa estremamente ragionevole. Io nel 2001 mi candidai sindaco di Roma, neanche 29 anni, con una lista che si chiama Democrazia Diretta, aveva come simbolo la chiocciola di internet. Intuii allora che la rete faceva sostanzialmente saltare il ruolo della mediazione, tutto diventava diretto. Con internet, se tu vuoi comprarti un pacchetto di viaggi, nell'era pre-internetiana andavi dall'agente di viaggi che ti vendeva il suo pacchetto dove guadagnava di più. Nell'era di internet te lo scegli da solo. Se devi comprare le azioni di borsa, nell'era pre-internet andavi al borsino in banca dal funzionario che magari ti piazzava le azioni Ciri o Parmalat, adesso fai trading online, cioè direttamente, quindi scegliendo tu e facendo errori eventualmente da solo. Il tema è questo: con internet qual è la grande rivoluzione della rete? È il salto della mediazione, è l'annullamento del ruolo del mediatore professionista. Il cittadino, l'utente è allo stesso tempo agente di viaggi, trader online, cittadino impegnato e quindi magari politico, e anche giornalista. Infatti si parla di citizen journalism nella rete. è una rivoluzione, è la rivoluzione della rete, è questo che è successo. Per questo io dico sempre che la rete non è un mezzo, è in realtà un fortissimo messaggio che ha estremamente democratizzato i luoghi dove invece dominavano le elite, e i luoghi dove dominavano le elite principali sono quelli della comunicazione e della politica. Il Movimento 5 Stelle arriva e vince perché annulla questa capacità dell'elite di essere dominanti in questi due campi. Andrei Annuzzi, direttore dell'agenzia Quotidiani Gruppo Espresso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Vorrei capire come la vedi tu da questo lato. Insomma, ci parlavamo ieri, mi dicevi quello di Grillo e del Movimento 5 Stelle è un gioco win-win, insomma, non se ne esce, nel senso che i giornalisti si imbestialiscono con loro o perché non ci parlano sostanzialmente. Loro a loro volta reagiscono naturalmente dicendo in questo modo confermate che siete una casta e che ce l'avete con noi, non se ne esce, siamo in un loop. Sì, questo è il rischio. Bisogna dire che anche noi secondo me abbiamo sbagliato sia negli anni passati, ma forse stiamo sbagliando ancora adesso, l'approccio nei confronti di questo movimento, dei suoi militanti, ma soprattutto dei suoi elettori. Innanzitutto perché è noto da parte della categoria appunto quasi un porsi come antagonisti rispetto all'M5S, e quindi c'è quasi un giustificare quel loro frame che è noi contro loro. Cioè il frame vincente di Grillo e del Movimento 5S è sempre un noi contro un loro, e in questo caso il loro siamo noi e siamo loro nemici, e noi accettiamo, invece di porci da osservatori cercando in maniera più obiettiva possibile di osservarli, raccontarli, dialogare con loro, ci poniamo nel ruolo di antagonisti, per cui ci arrabbiamo perché non ci fanno fare le domande alla conferenza stampa come se invece Berlusconi le avesse sempre lasciate fare, ci scandalizziamo perché Crimi dice i giornalisti mi stanno tutti sul cazzo, ma in fondo il compito di un giornalista non è quello di essere simpatico a un politico, anzi credo che sia proprio il compito contrario. E poi non capiamo il loro forse codice di linguaggio. Cioè faccio un esempio: noi siamo abituati al titolismo e al virgolettismo. La politica tradizionale, il politico tradizionale sa e sapeva che se deve mandare un messaggio in codice, butta lì una frase all'interno di un discorso magari anche decontestualizzato, e sa che l'indomani 9 giornali su 10 faranno il titolo su quella frase e lui lancia il suo messaggio. Il militante o il parlamentare del Movimento 5 Stelle non ha questo meccanismo mentale, per cui se dice una cosa, magari senza rifletterci troppo, dice quella cosa e punto. E non è un messaggio, non è l'apertura. Cioè, abbiamo fatto decine di titoli in questi giorni sulle presunte aperture del Movimento 5 Stelle al PD, e puntualmente alla sera o il giorno dopo arrivava la smentita. Ma non era una smentita perché avevano cambiato idea, era una smentita perché semplicemente quelle loro frasi non volevano dire quello che noi interpretavamo. In sostanza non l'avevano detto. Voglio leggervi un paio di commenti che ci sono arrivati adesso su Facebook. La pagina è Vota Antonio R24, ve lo ricordo ancora. Ci scrive Stefano, leggo la stampa internazionale in inglese ma anche le traduzioni presenti su settimanali come Internazionale, non possono rilevare la profonda differenza di approfondimento e la maggiore equidistanza dai problemi che quasi sempre vengono analizzati da punti di vista diversi. Ettore Achille, i giornalisti sono impermeabili a tutto, arrivano sul cadavere caldo, sulla partita, a teatro, sul villaggio terremotato, hanno già il pezzo incorporato, il mondo frana sotto i loro piedi, si inabissa davanti ai tacchini e tutto quanto per loro è intercambiabile letame da tradurre in un preconfezionato compulsare di... leggo il testuale, di cazzate sulla tastiera, dice che siamo frigidi. C'è evidentemente Sorice, e qua chiudo questa prima parte con lei e poi rimarremo con Adinolfi e Iannuzzi. C'è un problema, anche perché so che poi se ne deve andare, c'è un problema evidentemente proprio di percezione e di come siamo percepiti, insomma, al di là poi di come il Movimento 5 Stelle ci riesca a scavalcare. Sorry, la percezione della giovinezza in Italia non è mai stata particolarmente rosea, diciamo così. Anche le indagini in vari anni compiute sulla credibilità della professione giornalistica dimostrano come i giornalisti in realtà, prima ancora del fenomeno Movimento 5 Stelle, fossero considerati in realtà fra le categorie meno credibili, anche se quelle nel contempo più agognate. Vorrei molto, con molto piacere, che mio figlio facesse il giornalista, ma non credo ai giornalisti, che è una tipica posizione apparentemente schizofrenica della società italiana. In realtà nasce dalla considerazione del giornalista e del sistema dell'informazione in genere appunto come contiguo alla politica, e ha trovato nel Movimento 5 Stelle un elemento di detonazione di qualcosa che era già presente nella società italiana, che era il rifiuto non soltanto della politica tradizionale, ma di tutto ciò che apparteneva o che veniva percepito come appartenere alla casta, per usare il termine che è stato più volte utilizzato anche da Beppe Grillo. E questo naturalmente ha creato un cortocircuito terrificante, per cui i giornalisti sono ovviamente sempre considerati bari, imbroglioni, poco affidabili, eccetera. Nulla affatto, devo dire, il giornalismo italiano per potersi scrollare di dosso questa etichetta, peraltro falsa. Io non credo assolutamente al luogo comune dei giornalisti italiani come quelli peggiori del mondo. Non è vero, ci sono casi esemplari e straordinari. Il vero problema continua ad essere la contiguità, questa sì evidente ed effettiva, fra il sistema dell'informazione e la politica, a partire dalle forme di finanziamento, a partire dalle relazioni necessitate per la sopravvivenza dello stesso sistema fra il Parlamento e i gruppi politici e le testate. Insomma, direi che c'è un problema di fondo che affonda, scusate il gioco di parole, le sue radici nella struttura delle industrie culturali italiane. La non capacità di autosufficienza del sistema dell'informazione italiano lo rende sostanzialmente schiavo di una situazione che poi gli nuoce in termini di credibilità. Grazie Michele Storice, docente di comunicazione politica e sociologia della comunicazione alla Luis Guido Carli di Roma, e buona giornata. Noi abbiamo una domanda per Mario Adinolfi, che ci arriva da Maria Chiara Visentin proprio via Twitter, proprio sul tema del salto della mediazione che permette la rete. Ci dice: ma i singoli sono in grado di capire tutti i fenomeni? In rete si rischia la bolla, perché questo è secondo me l'altro elemento e il punto nel quale ci potremmo innestare. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Esatto, allora facciamo un'intervista a noi. Un'intervista ai giornalisti. Esatto. Prego. Cosa ne pensate dell'informazione in Italia? Una domanda un po' vaga. Dice almeno per chi lavori, diteci chi siete. No, no. Siete quelli di servizio pubblico? Sì. Quando è che andate in onda? 25 ottobre. Sulla 7. Capito. Com'è che Santoro è passato alla 7? Aspetta. Non lo sappiamo. Chi compra la Telecom? Non so niente, nessuno, Nick. Ed ecco un altro esperimento interessante, quello che avete sentito, è andato in onda qualche mese fa, in onda ormai dico così, in realtà è stato messo in rete, sì, è andato in onda nella sostanza, ed erano le interviste degli attivisti del Movimento 5 Stelle ai giornalisti, cioè quando i giornalisti andavano là a seguire le manifestazioni, loro gli facevano le interviste. Mario Adinolfi, il tema della mediazione, insomma, sì, è vero, no, la rete rompe l'intermediazione. E però dall'altra parte, dal punto di vista dell'informazione soprattutto, il problema è che ci trovi qualsiasi cosa, cioè questa assenza di intermediazione fa sì che non rischia di parificare tutte le fonti? No, direi di no, perché poi dopo insomma esiste l'autorevolezza di chi genera informazione, questo vale nel mondo dei vecchi media e vale ancora di più nel mondo dei nuovi media, cioè ci sono fonti autorevoli e fonti meno autorevoli che vengono gerarchizzate, come dire, in una sorta di intelligenza collettiva su internet. Io non penso che noi facendo una ricerca su Google non abbiamo la capacità di discernere una fonte autorevole da una che lo è meno. Insomma, l'autorevolezza deriva anche molto spesso dalla capacità di avere seguaci, diciamo così. Insomma, è molto difficile che uno che dica tutti i giorni che l'asino vola abbia una enorme capacità di avere seguaci o di followers, come si dice in gergo di Twitter, mentre invece se uno fa un'analisi della realtà in qualche modo capace di generare pensiero, probabilmente avrà una capacità di essere seguito. Io diffido da questa distinzione che trovo un po' pelosa tra il mondo della vecchia comunicazione, che sarebbe autorevole e serio, e il mondo della nuova, in cui tutto viene invece appiattito in una sorta di indistinto hegeliano in cui tutte le vacche sono nere. Non è così, perché anche nella vecchia comunicazione in realtà l'autorevolezza era piuttosto blanda, diciamo così, sì. E c'è una condizione tuttora di evidente eterodirezione dei contenuti. Questo insomma dovrebbe preoccupare molto più rispetto al vecchio mondo della comunicazione che a quello nuovo della rete. Secondo te, Mario, dove ci porta alla fine tutto questo, anche come, insomma, come rapporto dei cittadini con i media? Insomma, io so che tra l'altro stiamo trattando di un settore, quello nostro, quello dell'editoria, che è in una fase di trasformazione mostruosa, e quindi vedere alla lunga distanza è complicatissimo, però adesso si innesta, proprio con l'arrivo del 5 Stelle in Parlamento, se vogliamo, un meccanismo nuovo, esplode un meccanismo che era sotto traccia, no? Dove ci porta? Dobbiamo ragionare su questo, perché io sono iscritto all'Ordine dei giornalisti al 91, professionista al 97, nel 2013 a 42 anni mi trovo con un mondo completamente cambiato. Cosa voglio fare? Attaccarmi al vecchio carro sperando che duri il più possibile, o cercare di capire il nuovo e gettarmi in questo mare e nuotare? Insomma, questo riguarda poi le scelte individuali di ciascuno di noi, prima di tutto. Poi ha questa cosa un aspetto collettivo, che è l'aspetto, chiamiamolo, politico, in cui il 5 Stelle è semplicemente un primo manifestarsi molto forte, molto potente, di una realtà che dobbiamo imparare a saper governare, senza fare sempre quelli con il ditino alzato che dicono «Oddio che brutto, arrivano i barbari». Non è così. Non è così sul piano individuale, perché dobbiamo adeguarci sicuramente, comprendere, studiare i nuovi fenomeni, e dobbiamo farlo anche sul piano collettivo, perché con ogni probabilità questi famosi barbari non sono così più biechi di quelli che li hanno preceduti. Insomma, io avendoli visti da vicino, diciamo così, avendo fatto il parlamentare, insomma, io, oltre a essere iscritto all'Ordine dei giornalisti, ho anche fatto il parlamentare, quindi ho avuto uno sguardo, diciamo, diretto su questi due mondi old style. Non sono convinto che i nuovi siano così pericolosi rispetto a quello che c'era prima. La sindrome del ditino alzato, è vero che c'è un po' questa sindrome del ditino alzato. È come se c'è, e quello è brutto perché pensa al microchip, e quell'altro è brutto perché ha detto che i giornalisti stanno sul cazzo. È tutta così, se vanno tutti i giorni troviamo articolate i severnini che dicono che bisogna avere buona educazione quando si mangiavano le fette di mortadella in Parlamento, vi ricordo. Sì. Cioè, non è che quella è la cosa divertente. E i cappi anche in Parlamento. Andrea Iannuzzi, soffriamo della sindrome del ditino alzato. Mi sembra che tu possa concordare anche in base a quello che ci dicevi prima su questo. Questo problema c'è, non è, ovviamente non si deve mai generalizzare, perché sennò incorri nell'errore che fanno altri. Però questo tema c'è. Però io vorrei chiarire quello che secondo me è un equivoco, cioè il fatto che il Movimento 5 Stelle non usi i media tradizionali per comunicare non significa che non li usi per informarsi, anzi io credo che loro siano dei lettori e degli spettatori molto più attenti della media, che si informino su varie fonti di informazione e che anche per questo loro poi ci facciano le pulci, perché notano le contraddizioni che noi stessi, nelle quali noi stessi inevitabilmente cadiamo. Per cui loro non è che considerano i media e la stampa come inutili, perché invece sono molto informati sulla stampa italiana, sulla stampa straniera, e in più sanno che con un certo modo di fare i media comunque parleranno di loro, e questo a loro fa estremamente gioco. Quindi non è così banale la cosa. Per quanto riguarda noi, io l'ho già detto, cioè noi dobbiamo rimetterci nella posizione degli osservatori e forse lasciare un po' al passato l'idea che i giornali, in particolare i grandi giornali, i giornalisti siano attori sulla scena politica nazionale, perché forse questo è potuto andare bene, aveva anche un senso, è stato anche giusto in certi periodi e per certe situazioni. Oggi forse non è più quel tempo, non è più quel momento. Quindi fare un passo indietro, tornare a essere dei cani da guardia e non dei cani da caccia, insomma. Grazie Andrea Iannuzzi. Quindi se volete possiamo anche buttare là un hashtag su Twitter, abbassare il ditino, i giornalisti abbassino il ditino. Andrea Iannuzzi, Mario Adinolfi, grazie per essere stati con noi. Se volete, cari ascoltatori là e cari ascoltatrici, la discussione può proseguire sulla nostra pagina Facebook, vota Antonio R24, o su Twitter. Un ringraziamento a Giorgio De Luca in assistenza, grazie a Peter Bescapè in regia. Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Voto Antonio torna naturalmente sabato prossimo dopo il giornale radio delle 9. Noi invece ci risentiamo lunedì con 9 in punto. Buona giornata.